Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi è il 13 novembre, la giornata mondiale della gentilezza. Durante tutto l'anno ci sono giornate dedicate a qualcuno o a qualcosa. Proprio qualche giorno fa è arrivata una mail di un'ascoltatrice che si lamentava di questo. Troppe giornate, mi scriveva, bisogna tenere un'agenda apposta. Allora, in parte ha ragione, ma invito Valentina, che è autrice della mail, a pensarci da domani e invito lei e tutti voi a festeggiare la giornata di oggi, e per farlo vi faccio ascoltare un buongiorno, un delicato buongiorno di Massimo Gramellini. Prego, vuol ballare con me? Grazie, preferisco di no. Oggi vorrei scrivere qualcosa di veramente impopolare, per cui parlerò della gentilezza, della sua prematura e così poco rimpianta scomparsa. La defunta non richiedeva sacrifici particolari e nemmeno eroismi, solo un po' di educazione e, prima ancora, di umanità. Era una forma mentale, talvolta ipocrita, e però utile ad ammorbidire le asprezze della vita quotidiana. Grazie, prego, passi pure, mi scusi, ma si figuri, non me ne ero accorto, ha bisogno? E c'era prima il signore, non si preoccupi, disturbo? Ciascuna di queste espressioni e dei gesti che spesso le accompagnavano era una pennellata di grasso sugli ingranaggi esistenziali. Un balsamo che non migliorava le cose, ma consentiva di affrontarle per quel che erano, senza dovervi aggiungere lo sconforto che sempre ci assale quando abbiamo la sensazione di andare contromano. Prego, vuol ballare con me? Un gesto, una parola, un sorriso, ripetere l'esercizio e attendere le conseguenze. Intanto siete gentili, chiamatemi in diretta e fatemi sapere se e in che modo pensate di festeggiare questa giornata. A chi si è un po' arrugginito, indurito, a chi va sempre di fretta o aspetta che siano gli altri a fare il primo passo, la giornata di oggi potrebbe servire come una specie di laboratorio. Provate con una parola, con un gesto, con un sorriso e fatemi sapere che cosa è successo. Fatelo ora, sorridete a qualcuno che vi sta accanto, salutatelo con un buongiorno, o meglio una buona giornata, e chiamatemi per dire che effetto ha sortito. 800 24 00 24, ma potete anche scrivermi e diventare per oggi gentili autori della pagina del nostro Daily Lab, che oggi vorrei si trasformasse, grazie ai vostri messaggi, in un laboratorio della gentilezza. Come fare? Potete scrivere una definizione di gentilezza, un'idea per essere gentili, un vantaggio che ne può derivare al nostro numero 349-238-6666. Ma potete naturalmente anche scriverci una mail, esserebenessere@radio24.it. Noi riporteremo i vostri messaggi o le vostre mail sul nostro Daily Lab e come sempre vi invito sempre a scaricarmi, questo è un gesto molto gentile, e poi a seguirci su Twitter e su Facebook. Per avere labbra attraenti, pronuncia parole gentili. Per avere uno sguardo amorevole, cerca il lato buono delle persone. Audrey Hepburn. La gentilezza rende belli, approfittiamone, quindi le labbra con le parole gentili diventano attraenti e sappiamo bene che il nostro sorriso insieme allo sguardo sono il nostro biglietto da visita. Qui in studio con me la dottoressa Veronica Bismaro, odontoiatra, esperta di rieducazione funzionale del cavo orale e di occlusione. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. Dottoressa, con lei parleremo naturalmente di sorriso, ma da un'altra prospettiva, ma sempre legata al benessere. Sempre legata al benessere, il sorriso. Il sorriso è una forma di comunicazione molto, molto antica, è prerogativa della nostra razza, e pensate che per sorridere sono coinvolti 10-12 muscoli della muscolatura mimica, che è fatta da tutti quei muscoli che ci permettono di trasmettere le nostre emozioni, e queste non soltanto le trasmettiamo agli altri, e questo vale dal punto di vista dell'efficacia della nostra comunicazione il 50%, più del 50%, ma anche a noi stessi. Cioè un sorriso agisce anche a livello proprio neurologico sulla persona che lo produce, quindi è molto importante impararlo a farlo in modo autentico e sincero. Senza considerare che sorridere è un ottimo esercizio per rinforzare la muscolatura delle labbra e del viso. Assolutamente, cioè è un esercizio che fa molto bene alla carnosità delle labbra, per cui non soltanto fa bene all'umore, ma fa proprio bene anche ai muscoli. Invece di fare cose magari un pochettino più artificiose, diciamo così, un buon modo di sorridere è allena e mantiene toniche le labbra e quindi carnose e sensuali. E proponiamo subito un esercizio, dottoressa Dismara, perché poi nella nostra pagina metteremo tutti degli esercizi. Sì, noi sì, andremo sì. di là, ci daremo il rossetto, sì. Ecco, una gentilezza alle nostre labbra, e faremo proprio degli esercizi che i nostri ascoltatori potranno seguire andando sulla pagina di Essere Benessere. Esatto. Ma iniziamo a farlo. Per chi non ci può seguire sul sito, un esercizio per mantenere i muscoli, no, delle labbra tonici e proprio sorridere. Ma come? Subito dopo avere posizionato le labbra come se volessimo dare un bacio. Quindi è un esercizio proprio che si chiama bacio sorriso. Allora, magari senza fare lo schiocco, perché altrimenti le labbra schioccano e si aprono, però posizionate le labbra molto a bacio, come se voleste proprio mandarlo lontano. Poi ve lo facciamo vedere. E subito dopo sorridete nel modo più aperto che riuscite a fare, quindi scoprendo bene i denti e lasciando che anche gli occhi sorridano, perché è molto importante che anche la muscolatura degli occhi partecipi per rendere dal punto di vista della tonicità più efficace l'esercizio, ma anche la comunicazione. Quindi bacio sorriso. Era punto tacco, ma sorridere conviene. Ci sono altri buoni motivi che sono provati dalla ricerca. Un sorriso arricchisce chi lo riceve senza impoverire chi lo dona, recita un famoso modo di dire. Vero, ma non solo. Un sorriso aiuta anche a sopportare meglio lo stress, abbassando la frequenza cardiaca nei momenti di nervosismo e aiutando l'organismo a reagire positivamente a stati d'animo negativi. E il bello è che funziona anche se sorridiamo senza sentirci davvero felici. Anche un sorriso forzato o di etichetta, insomma, aiuta ad affrontare meglio la vita. La scoperta è di Tara Kraft e Sarah Pressman della University of Kansas, USA. E in linea con noi è tornata a trovarci la dottoressa Maria Giovanna Luini, scrittore, medico e comunicatore scientifica all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Buongiorno anche a lei, un bacio e un sorriso, noi ci stiamo allenando. Buongiorno, bacio e sorriso a tutti. Dottoressa Luini, sorridere conviene anche, come anticipava la dottoressa Dismara, tirare un pochino su il nostro umore. Sì, a quanto pare il sorriso muove in noi tutta una serie di ormoni e di neurotrasmettitori, cioè sostanze che noi produciamo e che agiscono a livello del cervello, mettiamola così, e queste sostanze ci aiutano intanto a migliorare l'umore, cioè nell'istante in cui io sorrido anche in modo forzato produco cose che mi migliorano davvero l'umore. E poi la frequenza cardiaca diminuisce un po', questo è importante nelle situazioni di stress. Noi sappiamo che lo stress ci fa aumentare il battito del cuore, se noi sorridiamo o ci sforziamo di sorridere, diamo al cuore un po' di riposo e affrontiamo meglio lo stress. Dottoressa Luini, ho chiesto ai miei ascoltatori, e lo chiedo anche a lei, di regalarci un messaggio, una definizione, un'idea per essere gentili, perché vogliamo trasformare la giornata di oggi, il Daily Lab della pagina di Essere Benessere, in un laboratorio per provare a essere gentili, perché sappiamo tutti per esperienza diretta che la gentilezza può essere un virus contagioso, e noi partiamo dal sorriso oggi. Sì, io invito a dare, perché ciò che diamo è esattamente ciò che riceviamo, e quindi se noi diamo gentilezza la riceveremo, questo è matematico. Nella mia vita ho visto che sempre è accaduto così, e quindi il motto è dare per ricevere. Grazie dottoressa Luini, a presto, buona giornata grazie. Della gentilezza. Grazie, un sorriso a tutti. Smile, though your heart is aching. Sorridi, anche se il tuo cuore soffre. Sorridi, anche se si sta spezzando. When there are clouds. Quando ci sono nuvole nel cielo, non ci penserai se sorridi. Attraverso la tua paura e il tuo dolore, sorridi. E forse domani vedrai il sole levarsi e splendere per te. E in linea abbiamo Claudio dalla provincia di Verona e Patrizia dalla provincia Monza Brianza, che gentilmente ci hanno chiamato all'800 24 0024. Claudio, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Buona giornata, ci racconti. Ma io applico istintivamente, non molto razionale, un principio che mi è stato insegnato, l'ho sperimentato ed è questo: comportamento genera comportamento, nel senso che se io mi rivolgo gentilmente, sorrido alle persone, cerco la loro empatia, probabilmente riesco a generare lo stesso comportamento del prossimo nei miei confronti. Poi credo anche di aver letto da qualche parte molto tempo fa che i muscoli che si mettono in moto, i muscoli mimici, facciali, che si mettono in moto e si impegnano nel sorriso o anche nel ridere, sono quelli più riposanti. Cioè si fa molta più fatica a essere ingrugniti piuttosto che sorridere. Allora sorridiamo. Grazie Claudio. Riporteremo la sua considerazione sul nostro Daily Lab di oggi, perché offre un ottimo spunto di riflessione. Andiamo a Patrizia. Patrizia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buon sorriso. Non lo potete vedere, ma io sto sorridendo. Si sente dalla voce. Dunque, io in qualsiasi luogo entri, che sia un aeroporto, che sia un autogrill, che sia un bar, in treno, entro e dico da sola a me stessa e a chi mi trovo davanti: permesso, buongiorno. Beh, allora, tirando la parte in banca, che entro e dico permesso, buongiorno ladri, perché ci vuole, solo lì, ma sorridendo. Premetto che vivo in un comune molto ma molto snob, ma tirando le somme confermo, sono in guadagno, perché i primi tempi che entravo nel solito bar per caffè e giornale si giravano, mi guardavano un po' così da puzzo sotto il naso, e allora io sorridendo chiedevo se avevo un buco da qualche parte sul maglione, perché mi guardavano così. Col tempo mi sono fatta un sacco di amici. Nel mio comune c'è un sacco di gente che fa footing e io passeggio col cane, incontro e dico buongiorno. Col tempo ho conosciuto un sacco di persone, ci chiacchiero, ci esco a cena con tutte queste persone che ho regalato sorrisi. E tutto è partito da un sorriso. Grazie. E tutto è partito da un sorriso. Grazie. Patrizia, buon sorriso e buona giornata. Dottoressa Vismara. Beh, certo, Patrizia, con l'ironia, che è una forma, è un modo anche di sorridere, perché quando ci vuole anche ironico può essere il sorriso. Il sorriso ha tanti significati, quindi va benissimo e abbassa la tensione in ogni caso, anche se uno entra in un bar dove sono tutti col muso e tutti arrabbiati. Quindi si scioglie la tensione anche degli altri. Però ci sono, dottoressa Vismara, qua torna l'odontoiatra, ci sono persone che vorrebbero sorridere, ma non osano sorridere per una serie di motivi, perché pensano di avere un brutto sorriso, o ce l'hanno veramente, hanno i denti non allineati, non hanno il sorriso all'americana, o hanno le gengive che si vedono troppo. Insomma, la bocca, le labbra e i denti generano spesso dei complessi. Sì, sono il nostro biglietto, come diceva prima lei, in effetti a volte delle problematiche di tipo estetico, reali o vissute come tali, perché il sorriso di Letizia Casta io trovo che sia bellissimo, anche se ha un dentino un po' storto, e quindi non va ricercata la perfezione, ma la salute, quella sì. Quindi esistono ormai tantissime possibilità terapeutiche che mettano mano al nostro sorriso, sia che si tratti di una problematica gengivale, sia che si tratti di una problematica di colore o di forma dei denti. Ricordiamoci che il sorriso gengivale, come diceva prima Nicoletta, È piacevole, è gradevole, può essere gradevole anche quello. Quindi quando un sorriso, in ogni caso... A patto caso, che le gengive siano in ordine, ovviamente, belle rosate, non gonfie, non retratte. Certo, certo, certo. Però anche do se questi uno... segnali ai nostri ascoltatori, perché, dottoressa Vismara? Perché oggi possiamo potete approfittare chiamare, gentilmente certo. della sua consulenza per capire qualcosa di più della salute della nostra bocca, certo. perché partiamo dal sorriso. Ma per sorridere è meglio sorridere con una bocca sana, bella, e la salute della bocca è essenziale per una bocca che bella. Bella. Quindi sì, diciamo che quando una bocca è sana e funzionale è senz'altro bella. 800 24 00 24, se vi siete riconosciuti in alcuni dei problemi che abbiamo citato e che possono in qualche modo chiudere le nostre labbra e non sorridere, chiamateci, perché se è vero che il sorriso è un gesto che esprime in modo chiaro gentilezza, amicizia, disponibilità, apertura, è proprio un linguaggio universale che viene compreso trasversale, ovunque, certo. È vero che possiamo però essere gentili anche a parole, a volte un grazie vale un sorriso. Dottoressa, là dove non arriva il sorriso, se non ci viene voglia di sorridere, siamo gentili con la parola. Esatto, la parola e quindi con la lingua. La lingua è un organo molto importante che ha tante funzioni, quello della parola, quindi la fonazione, ma anche quello di mantenere la nostra postura, perché attraverso la deglutizione e anche attraverso la postura a riposo della lingua viene resettata in continuazione la postura. Esiste un punto particolare che si chiama spot linguale, che è dietro agli incisivi superiori, dove ci sono le rughettine che potete sentire con la punta della lingua se dite la lettera L. Lì va posizionata e va mantenuta a leggero contatto durante tutta la giornata quando si è a riposo, in modo che quando dobbiamo deglutire lei è già lì pronta, non fa fatica e rimane tonica. A proposito di deglutizione, ecco il nostro quizzettone, dottoressa Vismara. Allora, quante volte deglutiamo, o meglio, ogni quanto tempo deglutiamo durante il giorno e durante la notte? 800 24 00 24, questo è il quizzettone di oggi. Ma dottoressa Vismara, noi possiamo capire dove teniamo la lingua? Perché non, quando noi siamo in tutt'altre faccende affaccendate, l'ultima cosa a cui pensiamo è la nostra lingua, soprattutto se stiamo lavorando, se non dobbiamo usarla. Allora, c'è però un piccolo test che lei ci suggerirà, che ci farà capire se la lingua la teniamo nella posizione giusta oppure la lingua va un po' per i fatti suoi. Esatto. E questo, ragazzi miei, può portare a una serie di problemi, perché abbiamo visto in altre puntate, che vi invito come sempre a scaricare, che la lingua è collegata, cioè non ce l'abbiamo, anche non sempre collegata al cervello, no, ma è collegata muscoli, ai muscoli, sì. Questo sicuramente. Sì, sì, sì. Allora, come fare, dottoressa Vismara, allora, a capire? Soprattutto con questo piccolo test possiamo capire quanto la lingua influenza la nostra postura, nel senso che se noi la teniamo normalmente nella posizione corretta, se una volta la mettiamo in una posizione errata non succederà nulla, ma se noi d'abitudine, soprattutto a riposo, la teniamo nella posizione scorretta, cioè non in leggero contatto sfiorante con le rughe palatine, può darsi che questo influenzi la nostra postura dal collo a scendere, perché poi esiste l'osso ioide che è collegato con la scapola attraverso un muscolo omoioideo, quindi magari abbiamo problemi alla scapola e non sappiamo che è perché deglutiamo male o teniamo male la lingua. Allora potete fare questo esercizio molto semplice, questo test. Mettervi senza tacchi, con le ginocchia dritte, senza frustrarvi se non toccate terra, però verificare con la lingua nella posizione, diciamo, sbagliata, quindi appoggiatela agli incisivi inferiori o lasciatela libera nel palato, molle dove vuole. Voi vi piegate in avanti tenendo le ginocchia quindi dritte e verificate semplicemente quanto riuscite a piegare la vostra schiena. Dopodiché ritornate in posizione retta, posizionate questa volta la lingua dietro agli incisivi superiori sfiorando quelle rughe palatine di cui abbiamo tanto parlato e riprovate a piegarvi e verificate se c'è differenza o no. Labbra, denti, una lingua, un cuore e un cervello. Ecco il kit per la giornata mondiale della gentilezza. Amici, sorridete 800 24 00 24 e oggi abbiamo l'occasione di avere la dottoressa Vismara qui in studio per parlare dei vantaggi del nostro sorriso, ma anche della salute del nostro sorriso. Dottoressa Vismara, lei ha sottolineato l'importanza della lingua, perché la lingua è fortissima. La lingua è fortissima. Sposta i denti. Sposta i denti. Se c'è una deglutizione scorretta, può addirittura proprio provocare, soprattutto se la deglutizione avviene e comincia a essere scorretta in età giovane, magari perché abbiamo succhiato un po' troppo il biberon o un po' troppo il dito, allora la lingua diciamo che può provocare quello che si chiama morso aperto, cioè provocare il fatto che i denti davanti lasciano una specie di buchino e quindi ogni volta che io dopo devo deglutire devo metterci la lingua, perché altrimenti non riesco a fare il vuoto e si crea un circolo vizioso tra la deglutizione, l'occlusione sbagliata e le problematiche posturali, perché la lingua in quella posizione può avere dei danni, bruciare, dar fastidio, avere l'impronta dei denti, insomma tante problematiche. Insieme ai tanti messaggi che stanno arrivando sulla gentilezza, che è il tema che noi trattiamo insieme naturalmente al sorriso e che riporteremo sul nostro Daily Lab, è arrivato un messaggio di Marisa che ci scrive: con la lingua nella posizione corretta, quindi in alto. Dove ci sono le rughette, tocco i piedi, incredibile. Dottoressa Vismara, un altro test per capire se deglutiamo correttamente è quello di bere. Esatto. Prendete un bicchiere, metteteci dell'acqua, un po' d'acqua, vi mettete davanti allo specchio, perché dovete guardarvi proprio nel volto, nel viso, intanto che deglutite, e dividete idealmente il vostro atto di deglutizione in diverse parti, cioè cominciate a sorseggiare poca acqua, la raccogliete come una conchetta tra la lingua e il palato, chiudendo appunto la lingua contro le rughe, e state lì un attimo a sentire che è lì e che non va da nessun'altra parte, quindi chiudete ovviamente labbra e denti e poi deglutite in modo consapevole, guardandovi allo specchio e verificando che l'unica cosa che si muove è la gola, all'altezza della gola. Tutto il resto della muscolatura deve essere fermo. Giancarlo da Brescia, Mariangela da Verona, buongiorno Giancarlo. Buongiorno. Eccola qua, buongiorno a lei. Ecco, io volevo raccontare di un'esperienza che ho fatto io, che ho fatto diversi anni fa, prima che uscissero clown in corsia, eccetera, eccetera. Stavo facendo un allenamento per personaggio clown e uno di questi allenamenti era che dovevo portare il naso da clown durante i viaggi in automobile, i semafori, dove c'era comunque gente. La cosa pazzesca, e mi ero divertito tantissimo, è vedere le persone al mattino, mentre andavano al lavoro, vedersi uno che è là in automobile con l'aria da clown, c'è chi rideva come un pazzo, c'è chi era serissimo che mi guardava come per dire ma questo da dove spunta? E poi ho visto diverse persone che erano serissimi, andavano avanti un pezzo e poi scoppiavano a ridere. E quindi ha portato un po' di sorrisi nella quotidianità, spesso grigia. Sì, credo che il senso di quell'esercizio era quanto è utile sorridere, dunque attraverso comunque il ruolo del personaggio, quanto è utile far sorridere le persone in diversi momenti, anche nei luoghi di lavoro. È vero. E oggi possiamo allenarci. Grazie Giancarlo da Brescia che ci ha chiamato all'800 24 00 24. Aspettiamo naturalmente anche le vostre domande sulla salute dei vostri sorrisi. Mariangela da Verona, buongiorno. Buongiorno. Ecco, volevo fare due domandine io, veloci. Allora, riguardo le gengive infiammate che continuo con l'utori, purtroppo mi sanguinano e sempre infiammate comunque. E penso che anche con l'utori già il disco, non voglio sentire una sua opinione. Grazie Giancarla. Mariangela, scusi, dottoressa Vismara. Allora, intanto volevo ricordare al primo ascoltatore che quella tecnica fantastica che è proprio la clownerie, che è stata promossa, è stata resa anche pubblica da un grandissimo medico che è Patch Adams. E io ho avuto la fortuna di fare un seminario con lui e vi assicuro che è irresistibile. Quindi la cura sorridendo, curare anche con gioia è molto importante. Il paziente sta meglio con un medico che sorride, che è gentile. La prima forma di cura. E mentre per quanto riguarda le gengive, volevo dire alla nostra ascoltatrice che esistono in effetti dei colluttori, quelli a base di clorexidina, che possono colorare i denti. Vanno presi o con una diluizione inferiore, oppure deve controllare che non ci sia all'interno la clorexidina, perché può macchiarli in modo assolutamente reversibile, però può macchiare denti e lingua. E il sanguinamento va combattuto alla radice, quindi con l'igiene, con altre terapie che prendano in non considerazione. Non bisogna trascurarlo. No, assolutamente. Ecco, questo è importante. Il sanguinamento gengivale è un sintomo molto importante. E noi parliamo della lingua, delle gengive, dei denti e del nostro sorriso, ma torniamo un attimo sulla lingua. Ne abbiamo una, ma ne parliamo tante. Caro Lois, non va male, ma devi metterti in testa una cosa, che la lingua cinese è una filosofia, un modo di essere, è un po' complessa. Ma io, professore, lo voglio imparare tutto, anche i dialetti. La lingua e i suoni, tantissimi suoni. In linea con noi abbiamo Francesca Dragotto, ricercatore nel settore glottologia e linguistica all'Università di Roma Tor Vergata. Ciao Francesca. Ciao Nicoletta, buongiorno, buongiorno dottoressa Vismara e buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, Francesca, facciamo un esercizio di propriocezione linguistico-fonatoria, una parola difficile ma che ci porta proprio dritto dritto all'aspetto della lingua che vogliamo trattare oggi con te, da un altro punto di vista rispetto a quella della dottoressa Vismara, che è odontoiatra. Ma avete qualcosa in comune voi assolutamente. Due? La lingua. Sì, assolutamente, ecco. Sì. La lingua, per l'appunto, Francesca. Sì, la lingua, che a me interessa principalmente in quanto organo articolatore, quindi una delle parti che contribuisce in modo determinante alla produzione di suoni linguistici e non. Mi riattacco a una cosa che avete già citato ed è la ragione per cui ho detto linguistici e non, perché non tutto ciò che è linguistico in una lingua lo è anche in altre. Prendiamo il caso del bacio, per noi non è un suono linguistico, in altre lingue funziona alla stregua di una consonante, per cui dobbiamo già ampliare la nostra veduta su quello che è il suono di una lingua e quello che non lo è. Ci sono lingue in cui i parlanti quindi si servono anche dei baci per poter trasmettere significati. La cosa può stupirci, ma possiamo facilmente spiegarla guardando, come dicevi tu poc'anzi, a quello che succede nella nostra bocca quando parliamo e guardando a ciò che capiamo. E allora facciamo un esercizio di propriocezione. Possiamo allenarci a riconoscere la posizione che la nostra lingua assume durante l'articolazione dei suoni, esattamente come si fa in palestra con gli esercizi che servono a rendersi conto di quali muscoli vengono impiegati per ottenere un certo tipo di risultato. Mi piace molto. Sì, facciamo l'esercizio della N, o più correttamente della N, visto che N contiene tre suoni. Allora prendiamo alcune parole, prendiamo la parola naso, prendiamo la parola anfora, prendiamo la parola sangue e ci concentriamo, pronunciandole a voce alta, sulla posizione che la lingua ha durante proprio l'articolazione della N. Aspetta Francesca, naso. Anfora, sangue. Anfora. Sangue. Okay. A questo punto vi rifaccio la domanda: quante N abbiamo? Naso, anfora, sangue. Quante? Non N, N di Nicoletta. In linea con noi abbiamo la professoressa Francesca Dragotto, ma la dottoressa Vismara ha fatto l'esercizio. Alcuni di voi ci hanno chiamato all'800 24 00 24, forse. Dottoressa Vismara. Allora Francesca, a me sembra che la N vada progressivamente dall'avanti all'indietro durante la pronuncia di queste tre parole, cioè naso è proprio, io la sento molto in avanti con la lingua sulle rughe, anfora un po' più indietro e sangue ancora più indietro, per cui Francesca, mi sento tre diverse in effetti. La risposta tre diverse è assolutamente corretta, e però quella di anfora è leggermente più anteriore a quella di naso, perché nel caso di anfora intervengono insieme labbra e denti, e le labbra sono più esterne rispetto ai denti. Per cui da questo esercizio impariamo che, professoressa Dragotto, Francesca per gli amici. Impariamo che un conto è la percezione a livello mentale dei suoni della nostra lingua, percezione che ci farebbe dire in italiano abbiamo una sola N, un conto è quello che accade quando articoliamo, dove il numero di N che produciamo è pari al numero di combinazioni in cui troviamo la N. Quindi cambiando i compagni di strada della N, l'elemento che precede e o l'elemento che segue, articoleremo la N in maniera del tutto differente. Quindi una N, tante, tantissime, addirittura centinaia di N. Grazie a Francesca Dragotto per essere stata con noi. Naturalmente questa fila di questo elenco di parole, proprio per allenarvi e per toccare con mano quello che la professoressa Dragotto ci ha spiegato, le metteremo anche sulla nostra pagina. Ciao Francesca, grazie. Ciao, grazie a voi, buona giornata. Abbiamo Maria Paola, mamma mia, da Sassari, tutte queste S. Maria Paola, la mia lingua con la S non va d'accordo, ma... Va bene, io chiamo perché ho un problema di chiusura della bocca, ho una chiusura di terzo tipo col morso incrociato. Ho raggiunto negli anni, perché ho una certa età, ho 56 anni, un certo equilibrio. Insomma, tutti i medici che ho, i dentisti che ho consultato, mi hanno sconsigliato un intervento perché sarebbe stata l'unica soluzione per il mio problema. Sì. Li ho consultati già in giovane età. Però ho visto che col tempo continuano ad esserci un po' degli spostamenti che sono negli anni abbastanza illimitati, però ogni tanto morsico la lingua. La lingua, ecco. Insomma, sia gentile Maria Paola, mi venga la domanda, perché... Ecco, sì, volevo sapere se c'è una soluzione per evitare questi problemi che poi col tempo temo possano, insomma, creare problemi alla lingua, perché io tra alla lingua e a tutto quello a cui la lingua è corregata. Vedo sempre che ho segno dei denti anche quando non mi morsico. Grazie Maria Paola. Allora, dottoressa Vismara. Allora, con ogni probabilità forse è proprio la spinta della lingua che ha favorito questa terza classe scheletrica, cioè quella col mento in avanti, per intenderci. Una cosa che si può fare, se lei non ha voglia di fare un intervento chirurgico, è utilizzare un bite, almeno di notte, che le impedisca di mordersi la lingua e che, diciamo, che faccia un po' una finta, le produca un'occlusione fintamente corretta, in modo che almeno durante la notte lei eviti di traumatizzarli. Vipera, vipera, sul braccio di colei, oggi distrugge tutti i sogni miei. Biforcuta, come quella di una vipera, si dice anche della lingua di alcune persone che lanciano sempre la battutina un po' maliziosa, fanno il pettegolezzo. Allora, per oggi evitiamolo, risparmiamoci le lingue biforcute e cerchiamo di trattenere la nostra se è biforcuta d'abitudine. In linea con noi abbiamo Sara Viola, buongiorno, medico e psicoterapeuta. Buongiorno a tutti, anche alle lingue biforcute in ascolto. Ecco, che oggi siano gentili. Assolutamente sì, anche perché direi che purtroppo dobbiamo farci i conti con questa dimensione, sia personale, perché ciascuno di noi ogni tanto punge laddove non deve, si fa sfuggire qualche pettegolezzo o qualche commento acido, e ciascuno di noi è o sarà vittima delle lingue biforcute, con le quali bisogna assolutamente imparare a convivere, chiudendo un orecchio su due, qualche volta anche due. Quindi facciamo finta di niente, lasciamo cadere? Facciamo finta di niente, lasciamo cadere, diciamo che il pettegolezzo è purtroppo una delle attività dominanti per l'essere umano, soprattutto quando si annoia e soprattutto quando non si piace. Le lingue biforcute sono sempre persone che non si piacciono per nulla, per cui cerchiamo di compatirle un poco e staremo meglio anche noi. Grazie alla dottoressa Viola. Secondo con questa lettura anche le lingue biforcute riescono a essere più digeribili. Abbiamo Aldo che ci chiama da Brescia e poi Giovanni da Salerno. Aldo? Sì, buongiorno. Nicoletta. Buongiorno. Sta bene? Io molto bene, benissimo, grazie. Anche io, sono grazie. Contenta di sentirla. Ascolti anche la dottoressa Vismara, buongiorno. Buongiorno, Aldo. Ascolti, allora devo rispondere alla... Sì, se vuole, se vuole, sì. La dottoressa Vismara diceva ogni quanto minuti deglutiamo, allora, sì, di notte e di giorno. Sì, deglutiamo circa ogni 2 minuti, quindi dovremmo in teoria deglutire 43.200 volte durante la giornata. Ogni 2 minuti, io il conto non l'ho fatto, ogni 2 minuti quando? Di giorno o di notte? Ogni 2 minuti durante il giorno e durante la notte. Tutte e due insieme? Uguali secondo lei, Aldo? Secondo me sì, abbiamo una deglutizione ogni 2 minuti, quindi... Notturna e diurna è uguale. Ma credo di sì. Posso magari dire? Sì, può dirlo, allora, magari Aldo soffre un po' di insonnia. Soffre un po' di insonnia perché in perché effetti, voglio dargli il libro. Durante la notte si deglutisce circa ogni 2 minuti, durante il giorno un po' più spesso, ogni minuto circa. Per cui durante la notte o anche durante i momenti di particolare rilassamento si deglutisce meno, ma comunque è diverso tra il giorno e la notte, ecco. Però Aldo da Brescia, noi dato che si è avvicinato e oggi siamo molto gentili, sì. Io vorrei far avere ad Aldo da Brescia una copia della Guida al Benessere, il libro che ho scritto con Alberto Pellai e Paola Reverso, e sono, spero che gli piaccia e che trovi degli esercizi, consigli per aumentare e mantenere il suo benessere. Vi dicevo che la gentilezza era contagiosa, che è una specie di virus. Bene, io sono riuscita a contagiare un insospettabile. Io non sono quasi mai gentile, però... oggi mi hai convinto, e allora solo per oggi, solo per te, solo per oggi, per qualche minuto divento gentile. Fate una carezza ai bambini. Ciao. Non avreste mai detto, eppure ce l'abbiamo fatta. Grazie a voi che siete intervenuti e ci avete seguita, a Veronica Vismara. Grazie a voi. Grazie a Matteo Comes in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione.